Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. È considerata la signora della narrativa italiana, ha venduto fino ad oggi 12 milioni di copie. I suoi romanzi sono tradotti in 20 paesi nel mondo. Lei è Sveva Casati Modignani, ora in libreria con un nuovo romanzo che si intitola Festa di famiglia, pubblicato, come la maggior parte degli altri, da Sperling e Kupfer. Sveva Casati Modignani, in questo titolo già sembra esserci un po', come dire, la quintessenza dei suoi romanzi, perché parliamo sì di festa, ma soprattutto di famiglia, perché la famiglia è un po' sempre la protagonista dei suoi romanzi. In questo caso si parla di una famiglia che ci si sceglie, la famiglia degli amici, perché le protagoniste sono quattro donne, diciamo sui 40 anni, che si vedono tutti i giovedì sera in un ristorante a Milano per parlare delle loro avventure, disavventure, le loro situazioni emotive, sentimentali, di vita e così via. Ecco, parliamo un po' di queste quattro protagoniste. Sono Carlotta, Andreina, Maria Sole e Gloria. Come se li è immaginate? Ma me le sono immaginate guardando le donne di oggi. Le donne, soprattutto le donne fra i 35 e i 45 anni, quelle che hanno un lavoro, che sono anche abbastanza ben retribuite. E pensavo alla differenza che c'è tra le donne di questa generazione e quelle della mia generazione. E allora devo dire che le guardo con molta ammirazione e anche molta invidia, perché sono molto più sicure di quanto non lo fossimo noi, non hanno più i lacci e lacciuoli che avevamo noi, sono veramente libere e quindi hanno anche la possibilità di essere più sincere. Sincere a un punto tale che alla fine possono anche dirsi: ma se amiamo un uomo, che bisogno abbiamo di sposarci con quest'uomo? Ecco, infatti fra queste quattro donne l'unica sposata è una, è Maria Sole. E poi le dice male, poverina. E poi infatti le dice malissimo, malissimo. Le altre hanno delle relazioni spesso con uomini sposati. Infatti, per esempio, Andreina, che è un po' il personaggio su cui si accende prima la luce nel romanzo, è incinta e aspetta un figlio da un uomo sposato che tra l'altro vive dall'altra parte del mondo, eccetera. E si vede proprio il confronto di come lei gestisce questa idea di gravidanza rispetto invece a quella che era stata la situazione della madre, che aveva avuto Andreina quando aveva praticamente 14-15 anni. 16 anni. Ecco, quindi c'è proprio una differenza. Sì, Viviana, che viveva in un paese del sud, essendo rimasta incinta, era guardata con molto sospetto, molto, molto criticata dal paese, quindi quasi messa al bando, tant'è che crescendo la sua bambina le aveva sempre detto: ti prego, non fare mai un figlio fuori dal matrimonio, non fare mai un figlio se non sei in grado di dargli un padre a questo figlio. E ad Andreina invece capita proprio questa cosa e lei si dibatte tra mille difficoltà, però capisce anche, soprattutto confrontandosi con le amiche, che la situazione è cambiata. Adesso una donna single che ha un figlio riesce a gestirselo benissimo, non è guardata con sospetto da nessuno. Non solo, ma è aiutata, le amiche l'aiutano, la sostengono, le amiche sono felici quando sanno che lei aspetta un bambino. Dicono: ma noi saremo delle zie stupende per questo bambino, lo cresceremo insieme. Cioè è una festa. Ai miei tempi era una tragedia, questa è la differenza. Ecco, ci sono anche delle differenze nei rapporti di amicizie fra donne. Non so, per esempio, 40-50 anni fa era diversa la situazione di solidarietà fra donne, perché in questo caso, l'abbiamo detto nel titolo, c'è festa di famiglia dove la famiglia poi è quella delle amiche che abbiamo scelto. Quindi c'è anche un cambiamento in questo. C'è e non c'è. Nel senso che le donne non hanno ancora capito quanto sia importante essere solidali le une con le altre. Poiché il sistema maschilista storicamente ci ha insegnato l'opposto, cioè a metterci contro le altre donne, molte donne di oggi, purtroppo, adesso abbiamo un esempio nel caso Weinstein, quando qualcuna ha denunciato questi soprusi e qualche altra signora si è permessa di dire: se l'è cercato lei, ne ha tratto profitto da questa cosa, se non voleva non ci stava, e la situazione è molto più complessa di quanto non si immagini. Io credo che non sarà mai troppo tardi il giorno in cui le donne, ma tutte, riuscissero a fare squadra tra loro esattamente come fanno gli uomini. Ed è per questo che gli uomini ci hanno sempre sovrastato. Ma se noi riusciamo a fare squadra tra noi, a capire che soltanto una donna ti può capire fino in fondo, soltanto una donna ti può ascoltare senza mai giudicarti, soltanto una donna ti può aiutare, ti può soccorrere, perché è questo lo spirito femminile, è quello della generosità, del darsi agli altri, no? Ma non è però una visione un po' troppo parziale della vita? Insomma, secondo lei un uomo e una donna non possono trovare lo stesso tipo Come no? di rapporto? Come no? Noi abbiamo in questo romanzo Gloria, che è innamorata da 20 anni del suo compagno, quando entrano in crisi. Quando dopo 20 anni lui le dice, ma senti, mettiamoci a vivere insieme. E lì scoppia. E in quel momento lì questo Sergio, che è un uomo delizioso, si mette in pantofole e dice, ormai la mia donna ce l'ho in casa. Ecco, lui per 20 anni, quando era suo compleanno, le ha regalato un gioiello. E adesso le regala il bimbi. E questa è la goccia che fa traboccare il vaso. Però nei suoi libri in genere le protagoniste sono le donne, i personaggi più forti, più esemplari in genere sono donne. Gli uomini certo compaiono, in alcuni casi sono positivi, in altri negativi, però sono sempre molto più sfumati rispetto ai personaggi femminili. Perché? Ma forse perché io sono una donna. Forse perché, non la prenda per una cattiveria, ma una donna è sempre molto ricca di sfaccettature, quindi ti offre molti più argomenti di narrazione che non il maschio, che di solito è più lineare, più piatto, meno complicato, no? Delle donne. Diciamo anche che le donne, per esempio, sono bravissime a mentire, e l'uomo invece, quando racconta una bugia, immediatamente viene incastrato dalla sua compagna, no? Tornando alla trama di questo romanzo, dicevamo che l'amicizia è un po' il filo conduttore. Quando ho iniziato a leggere questo romanzo, ho visto che c'erano le 4 protagoniste donne che si incontravano una sera, mi è venuto in mente, come a tutte quelle della mia generazione, delle quarantenni, la famosa serie TV Sex and the City, no? Dove c'erano 4 donne che si incontravano, parlavano di cose sentimentali. Lei l'aveva vista Sex and the City? Come no? Era anche una serie fatta molto bene, però era tutto legato al sesso. Al sesso, certo, storia. Certo. Anche se fatto con eleganza, sì. Qualcuno mi ha detto, ma questo sembra un Sex and the City alla milanese. Beh, qui c'è altro. Ci sono le storie di tutte queste donne, ci sono i loro problemi che non sono solo legati agli uomini, ai sentimenti, al sesso, ma sono legati proprio a come loro si pongono nei confronti della vita, del lavoro. Ecco, a proposito di lavoro, Carlotta è un avvocato, è anche un avvocato di successo. Come queste donne vivono, ecco, l'idea del far carriera e la prospettiva della carriera nella loro vita? La vivono con molta serietà, molta professionalità e molto impegno. Però è chiaro che la carriera non è il loro obiettivo principale. Cioè mettono sullo stesso piano il valore del successo nel lavoro e del successo nella vita personale. Perché guai a considerare il lavoro l'unica fonte di sopravvivenza. Poi non hai più amici, non hai più, perché tutti i tuoi amici sono nell'ambito lavorativo. Il giorno in cui smetti di lavorare e quelli non ci sono più, tu sei sola. In questo libro abbiamo detto si parla di famiglia in senso di famiglia scelta, di famiglia delle amiche. La famiglia ha subito naturalmente molte variazioni nel corso degli anni. Lei come la pensa sulle famiglie allargate, che ormai sono una realtà, ma anche sulle famiglie create da persone dello stesso sesso, quindi dal matrimonio, comunque dalle unioni civili fra persone omosessuali? Ma io penso che la sessualità è una cosa così privata, così personale, non c'è motivo di scandalizzarsi se due uomini o due donne si amano e vanno a vivere insieme. Mi suscita qualche risata quando sento che si vogliono sposare. Ma guardate quanto voi non immaginate la gente, le coppie sposate che vorrebbero non averlo mai fatto. Vabbè, lì è un'acquisizione però di diritti e di doveri. Beh, anche. C'è l'unione civile. Infatti. L'idea di andare davanti a un prete o a un sindaco che stabiliscono che voi siete sposati, insomma, mi sembra proprio una cosa fuori luogo, in un momento in cui proprio il matrimonio, in quanto istituzione con timbri e cose, sancita da timbri, da firme, non ha più senso. Ecco, ma in uno dei suoi romanzi, per esempio, metterebbe come protagonista o coprotagonista una famiglia omosessuale, per esempio? No, non la metterei, nel senso che non sono abbastanza dentro alle dinamiche omosessuali, però... Nulla osta, insomma. No, ma che senso ha? No. Ecco, quando abbiamo iniziato questa intervista l'ho presentata come la signora della narrativa italiana. Molti precisano della narrativa rosa, aggiungono questo aggettivo che io personalmente... Non aggiungono più. Per fortuna. Ormai da molti anni. È un aggettivo che io detesto. Ecco, appunto, questa era una definizione che le dava fastidio. No, non mi dava fastidio, anche perché io so che ci sono... Cioè, mettere dei colori, il giallo, il noir, il rosa, ci sono... belle storie e ci sono brutte storie. Sì, diciamo che l'aggettivo rosa era considerato anche un po', come dire, ghettizzante, da mettere da parte. A torto. Solo per le donne, da donne per le donne. A grande torto, perché se io penso all'autrice rosa italiana per eccellenza, che era Liala. Liala ha aiutato a vivere e a sopravvivere e a regalare momenti di serenità a milioni di donne nel nostro paese che vivevano in quell'epoca una vita veramente infame. Quando si parla di Sveva Casati Modignani, allora si dice spesso naturalmente che si tratta di uno pseudonimo, lo sappiamo, aveva iniziato a scrivere con suo marito, sì. Poi ha continuato a scrivere da solo, si parla anche del fatto che lei vive nella casa dove è nata a Milano, è molto affezionata, insomma, a quei ricordi, a quel passato, insomma, lei ha rilasciato anche tante interviste sui tanti romanzi che ha scritto, ma secondo lei c'è qualcosa che noi giornalisti o magari anche i lettori non hanno mai capito di lei o non le hanno mai chiesto? Dice, come mai non mi hanno mai chiesto questa cosa? C'è qualcosa che... No, non me la sono mai chiesta, no. La sola cosa che mi chiedo, non è che me la chiedo, è che ogni volta mi commuove, è l'affetto di chi mi legge, non solo delle donne, perché io ho... Pubblico maschile anche. Un bel plutone di lettori maschi e anche giovani. Anche giovani, ragazzi giovani che leggono La Sveva e mi dicono che loro, leggendo i miei libri, imparano molte cose sulle donne e imparano anche qualcosa su di loro. Ecco, invece di un manuale come trattare le donne, magari sarebbe meglio leggere un libro di Sveva Casati Modignani per capire come pensano le donne. Beh, le donne sono così complicate che qualche volta io guardo certi uomini con tenerezza e dico, ma poverini, vi dovete confrontare con queste creature che vi sovrastano di una spanna, anche se voi non vorreste che fosse così, perché noi donne siamo straordinarie, perché il buon Dio, creandoci, ci ha dotato in un emisfero del cervello, che non so se è il destro o il sinistro, di alcune qualità di cui l'uomo è privo, ma questo è scientificamente accertato. E queste qualità sono prima di tutto la capacità di dare, la resistenza alla fatica, perché l'uomo è più forte, ma la donna ha una resistenza alla fatica incredibile. La capacità di procreare, è la donna che dà la vita, l'uomo ci mette il gettone, ma poi gestisce 9 mesi di gravidanza, poi allatta i piccolini, è la donna che lo può fare. Quindi il giorno in cui noi donne ci renderemo conto di quanto valiamo, il mondo quel giorno diventerà, secondo me, un pochino migliore. Grazie a Sveva Casati Modignani, ora in libreria con Festa di famiglia, il nuovo romanzo pubblicato da Sperling e Kupfer. Ora una breve pausa, poi parleremo ancora di libri. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Il cacciatore di libri. Un libro per gli appassionati di romanzi storici. Si intitola Sugar Money, l'ha scritto Jane Harris, pubblicato in Italia da Neri Pozza con la traduzione di Massimo Ortelio. Jane Harris è nata a Belfast ma vive a Londra da molti anni. Aveva avuto un certo successo internazionale con il romanzo d'esordio Le Osservazioni, seguito da I Gillespie, entrambi romanzi ambientati in epoca vittoriana, quindi nell'Inghilterra dell'Ottocento. Anche questa volta ci propone una storia ambientata nel passato, in parte vera. Siamo nei Caraibi, precisamente in Martinica, nel 1760. I protagonisti sono due schiavi, i fratelli Emile e Lucien, che lavorano in un ospedale gestito da religiosi francesi. Il loro padrone, un frate, gli dà un compito difficile: andare a Grenada per prendere una quarantina di schiavi finiti in mano agli inglesi. Una missione pericolosa, di cui il fratello maggiore Emile comprende i rischi, mentre il più piccolo Lucien vive tutto come un'avventura. Una storia che porta a diverse riflessioni su schiavitù, libertà, ma anche sul legame fra fratelli. La parola a Jane Harris con la traduzione di Chiara Serafin. Well, they are brothers. Emile is the older brother and Lucien is the younger. Sono due fratelli e Emile è il fratello maggiore e Lucien è il fratello minore. Sono entrambi schiavi e nei documenti originali che io ho studiato per scrivere questo romanzo viene citato come mulatto, cioè uno schiavo di razza mista. Emile è tratto da un episodio realmente accaduto, mentre Lucien è stato inventato di sana pianta proprio perché non volevo spedire Emile in questo viaggio totalmente da solo. So that Emile did not have to go on this journey alone. Come è venuta a conoscenza di questa storia vera? I read in a history book of Grenada. Mi è capitato di leggere questa vicenda in un libro di storia mentre mi trovavo a Granada proprio in vacanza. E in questo libro mi sono imbattuta in quelli che erano semplicemente un paio di paragrafi, non è che ci fossero molte informazioni, ma mi ha colpito immediatamente questa sorta di viaggio di ricerca che viene affrontato da questo personaggio, che viene inviato dai suoi padroni francesi, che sono dei monaci, viene letteralmente spedito in territorio nemico in questa missione pericolosa, il cui scopo è quello di sottrarre 40 schiavi che sono sottoposti al dominio inglese britannico. E mi ha colpito perché è una storia incredibile, una storia in cui prevale l'ingiustizia, il pericolo in cui viene inviato letteralmente questo personaggio che non ha nessuna scelta, non ha alternativa. When he has no choice about what he can do. Infatti la reazione di Emile e Lucien all'ordine che ricevono, diciamo, dal loro padrone, appunto perché loro sono schiavi, è diversa. Emile ha la consapevolezza che si tratta di una missione pericolosa. Lucien vive un po' tutto come un'avventura. Yes, that's true. And that's partly to do with their personalities. Sì, è esattamente così, è proprio vero. E questo in parte è dovuto alla diversa personalità dei due personaggi e anche alla diversa età, ovviamente. Non dimentichiamo che Emile ha il doppio dell'età di Lucien, quindi è molto più informato sulla situazione, su quello che li aspetta. Io ho deciso proprio intenzionalmente di inventare questo personaggio di Lucien proprio perché volevo offrire un'esperienza migliore di lettura ai lettori stessi, perché volevo che questi eventi venissero raccontati dagli occhi di quello che appare come un personaggio del tutto innocente. Volevo anche che il lettore scoprisse man mano le cose allo stesso ritmo e alla stessa velocità di Lucien, così che la storia ne risultasse in un certo senso un pochettino più leggera, che non se fosse stata raccontata dal punto di vista di Emile oppure addirittura in terza persona. In genere i romanzi storici ci fanno naturalmente capire come si viveva in un tempo diverso dal nostro, ma a volte ci fanno anche comprendere qualcosa della nostra realtà. In questo caso, parlando di schiavitù e di libertà, il paragone viene subito con i migranti di oggi. Lei ha voluto effettivamente creare una sorta di parallelismo fra gli schiavi dell'epoca e gli schiavi moderni, o è un'interpretazione così del lettore, mia personale? Interesting question. And if I'm entirely honest, I was only struck by the historical story to start with. Una domanda veramente interessante, perché se io devo dire veramente tutta la verità, in tutta onestà, io inizialmente ero stata colpita solo dalla vicenda storica. Mi aveva impressionato in particolare favorevolmente la personalità di questa sorta di eroe mulatto e della situazione tremenda in cui si trova implicato. Tuttavia, dopo, alla fine della stesura del romanzo, ho cominciato io stessa a tracciare dei parallelismi con l'età contemporanea, con quello che sta succedendo adesso, proprio perché razzismo e schiavitù esistono ancora oggi, esistono e come. Basti dire che ci sono almeno 40 milioni di schiavi nel mondo, schiavi nel senso che sono coinvolti in situazioni di schiavitù o perché sono costretti a pagare alti tassi di interesse per un debito, oppure schiavitù sessuale, lavoro minorile, eccetera. E quindi, in fin dei conti, mi sono resa conto che c'era una sorta di importanza del mio romanzo storico, anche rilevanza per il tempo attuale. Extremely relevant to the times, to today. Sugar Money affronta appunto il tema della schiavitù, ma anche quello del rapporto fra fratelli, un rapporto veramente molto intenso, anche di protezione, appunto, perché Emile ha quasi il doppio dell'età di Lucienne. In questo senso, il rapporto fra fratelli, secondo lei, cambia? È cambiato nelle epoche storiche o è qualcosa che è rimasto così sempre uguale nel tempo? It's something that I think about a lot, particularly when I read, for instance, Charles Dickens, Jane Austen. In effetti ci ho pensato anch'io un bel po', ho pensato a questo tema, ma soprattutto mi capita quando leggo i romanzi di Charles Dickens o di Jane Austen, mi imbatto in questi personaggi che sono ancora estremamente vividi, come se fossero vivi. E quindi mi dico, beh, la gente, allora gli esseri umani non è che siano cambiati poi molto con il passare degli anni o dei secoli. Forse quello che cambia sono gli eventi circostanti, lo sfondo, questo sì, ma le persone restano fondamentalmente le stesse. Anzi, quando io leggo Dickens oppure Jane Austen, è come se saltassero fuori dalla pagina questi personaggi. Io ovviamente cerco di imitare, di emulare questi autori e di fare lo stesso nei miei romanzi. E quindi mi chiedo, ma due schiavi che si trovano in una situazione così difficile avrebbero voglia di scherzare? La risposta è ma perché no? Nonostante le avversità, il senso dell'umorismo, lo scherzo, il battibecco può essere proprio quello che ci riesce a far dimenticare la tristezza delle nostre circostanze. Quindi, per rispondere, no, io non penso che le persone siano cambiate molto. So that's what I was trying to do in this novel. I don't think people do change that much. I due precedenti romanzi, Le osservazioni e i Gillespie, erano ambientati in epoca vittoriana. Questo romanzo invece, Sugar Money, interessa un periodo precedente, siamo intorno al 1760, in Martinica, quindi nei Caraibi. Perché è sempre comunque legata al romanzo storico? Non ha voglia di scrivere qualcosa di contemporaneo? Every time I finish a book, I say, that's it, finito. I only now want to write a contemporary novel. Ogni volta che io finisco di scrivere uno di questi romanzi storici, mi dico, basta, questa è l'ultima volta. La prossima volta voglio concentrarmi assolutamente su un romanzo ambientato in epoca contemporanea, più che altro perché la fase di documentazione e di ricerca è estremamente lunga e laboriosa. Poi però, quando mi ritrovo a pensare al progetto successivo, molto spesso mi trovo di nuovo ad essere affascinata da qualche vicenda storica. Diciamo che però adesso veramente ne ho avuto abbastanza, quindi forse questa volta mi prenderò una pausa da tutte queste ricerche, ma vedremo. But we'll see. E questa era Jane Harris, ora in libreria con Sugar Money, pubblicato in Italia da Neri Pozza. Anche per oggi è tutto, grazie in regia ad Andrea Roccabella e Filippo Aureggi. Vi ricordo che potete essere sempre aggiornati su quanto stiamo preparando per Il Cacciatore di Libri seguendomi su Twitter, su Instagram e anche alla pagina ufficiale di Facebook, Il Cacciatore di Libri - Radio 24. Tutte le puntate sono disponibili in podcast. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.